paura. E tra fitte stelle ritornerai, incerto come un tetto senza tenura, che il tuo cielo addosso non crolli mai. Vivo nel terrore in continua fuga, spero che il tuo lazzo mi afferrerà, abbarbicato al ciglio di una scarpata, sempre che il tuo braccio mi salverà. In tasca stringo i sassi della tua luna, per frantumare i vetri della sera, per prosciugare il mare dei tuoi silenzi. Ho fuso le mie labbra nella tua cera, dimmi che verrai, spandi ora i tuoi unguenti, ma che il mio dolore non guarirai, di che verserai luce nei miei occhi, ma il tuo cieco appaio non veda mai. Disteso con l'orecchio sulla rotaia, sento il treno tuo che non passa mai. Vivo nel timore e nella preghiera che la tua catena si spezzerà, ma il tempo è l'usuraio di questa attesa che in contanti il dubbio ripagherà. E il giorno è il primo atto di una commedia, il pomeriggio un santo che non suda, le mie stagioni gambe di questa sedia, io sopra spergiurare come Giuda. Dimmi che verrai, placa i miei tormenti, ma dal mio delirio non svanirai. Dimmi dei miei guai, fossa dei serpenti, ma se dentro fuori mi tirerai, dimmi chi sarai, quale tra i miei specchi cela il vero volto che non mi mostri, di che brucerai luce tra i riflessi, ma il tuo cieco abbaglio che non mi tocchi.